abbiamo già presentato la straordinaria scrittrice Pearl Buck quando vi abbiamo offerto la lettura del suo romanzo L'amore di Aiwan. Lasciamo il link della sua presentazione in descrizione per chi volesse riascoltarla. Ma vogliamo riparlare di lei per presentare il suo romanzo più famoso, quello di cui la Scuola delle Donne vuole offrirvi ora la lettura e per il quale Pearl vinse il Pulitzer a circa 40 anni, La Buona Terra. Il romanzo, divenuto poi insieme ai due successivi una trilogia pubblicata col titolo di La Terra Cinese, cambiò per sempre il modo occidentale di vedere la Cina e portò Pearl Buck, 7 anni dopo, al Nobel per la letteratura, quarta donna e seconda dopo la nostra Grazia Deledda. Per presentare quest'opera ci avvaliamo della empatica postfazione di Margherita Carbonaro, che è anche la traduttrice del volume da noi usato per la lettura, edito da Mondadori. Scrive Margherita Carbonaro: Pearl e il marito, agronomo, attraversano in lungo e in largo le povere zone rurali della provincia cinese dove si sono trasferiti dopo il matrimonio. Lui studia per conto della locale missione cristiana le tecniche agricole della regione e lei lo accompagna, gli fa da interprete e osserva. È colpita, scrive Pearl, dai contadini e dalle loro famiglie che vivevano nei villaggi fuori dalle mura. Erano loro che portavano il peso maggiore della vita. Erano loro le persone più autentiche e vicine alla terra, al nascere e al morire, al riso e al pianto. Far visita alle famiglie contadine diventò il mio modo di cercare la realtà e in mezzo a loro trovai l'essere umano nella sua massima prossimità a sé. E proprio qui, in queste campagne, nasce La Buona Terra. Il romanzo verrà scritto parecchi anni dopo, nel corso del 1930, a Nanchino, quasi di nascosto, quando Pearl darà il libro fresco di stampa al padre, l'austero missionario Absalom. Questi le chiederà quando ha avuto mai il tempo di scriverlo e pochi giorni dopo glielo restituirà dicendo che non fa per lui. Continua Margherita Carbonaro. Il romanzo fu pubblicato nel 1931 e vinse il premio Pulitzer l'anno seguente. Pearl fu la prima a tradurre in inglese una delle 5 opere principali della letteratura classica cinese, dal titolo In riva all'acqua, del XV secolo, conosciuto anche con il titolo I briganti. Ancora più importante è il ruolo che Pearl assegna a quest'opera nel suo romanzo Stirpe di drago, il seguito di La Buona Terra. Simbolo di un desiderio di emancipazione femminile, è proprio questo il libro che il marito analfabeta compra casualmente per la giovane intraprendente Giada, dopo che lei l'ha supplicato di acquistarle qualcosa da leggere. Prosegue ancora Margherita Carbonaro scrivendo: colpisce senza dubbio anche il fatto che nel romanzo, e si intende questo romanzo di cui noi ora vi vogliamo dare la lettura, cioè La Buona Terra, edito da Mondadori, il fatto che nel romanzo le bambine siano dette slaves, in inglese schiave. Dietro slave, schiava, c'è il termine cinese yatu, che significa sia bambina, sia servetta, sia schiava. Ossia le bambine, le serve e le schiave erano considerate la stessa cosa. Prosegue Margherita Carbonaro nella sua postfazione parlando della terra della Dea della Misericordia, ovvero Kuan Yin, la appunto Dea della Misericordia nel buddismo popolare. Questa terra è il caolino o argilla bianca che i poveri mangiavano in tempi di carestia per placare i morsi della fame, benché non avesse nessun valore nutrizionale e non potesse essere digerita e assorbita, ma finisse per gonfiare il corpo, causando spesso perfino la morte. E ancora ci dà dei dettagli sulla traduzione: a earth, ossia terra, quando compare nel romanzo, è associato in genere il senso di un intimo rapporto fra l'essere umano e la materia. Earth è la sostanza che dà la vita. Di terra, earth, sono fatti la casa, il focolare, le divinità domestiche. La terra copre il corpo e il corpo vive del contatto con la terra. L'anziano Wang Lung, a volte, si chinava a raccogliere un po' di terra nella mano e la terra gentile lo aspettava senza fretta, citando frasi del romanzo. E poi prosegue sempre Margherita Carbonaro. Del dolore delle donne è intrisa la terra del romanzo di Pearl Buck, del dolore di Olan e di quello di Loto e di tutte le donne schiave e vendute. L'unico personaggio femminile libero è forse la scioccherella, in inglese Little Fool, senza nome, la figlia di Wang Lung, segnata da un ritardo mentale. Bisogna sapere che nel 1920, prosegue Margherita Carbonaro, Pearl Buck aveva dato alla luce una bambina chiamata Caroline Grace, che a pochi anni di età era risultata affetta da un disturbo del metabolismo degli aminoacidi che provocava tra l'altro un grave ritardo mentale. Quando Pearl scrisse La Buona Terra, si era appena separata dalla figlia. Comprese che non avrebbe potuto prendersi cura di lei in maniera adeguata e così nel 1929 era stata negli Stati Uniti allo scopo di trovare un istituto che potesse accogliere la figlia e in cui i bambini con disabilità fossero trattati come esseri umani. Per pagare in anticipo i primi 2 anni della retta, dovette prendere in prestito dei soldi. Fu la necessità di provvedere alla figlia per tutta la sua vita che divenne il grande sprone a scrivere e a guadagnare col suo lavoro di scrittrice. Un anno prima che le fosse notificato il Nobel per la Buona Terra, vale a dire nel 1937, La Buona Terra diventò anche un film oggi considerato un cult, che valse l'Oscar a Louise Rainer per l'interpretazione della parte di Olan, la protagonista, moglie di Wang Lung. In quell'occasione Pearl partecipò alla scrittura della sceneggiatura del libro. Nonostante questo, nonostante il suo prendere chiaramente le parti della Cina contro, la civiltà americana, la Cina finì per denigrare il lavoro di Pearl Buck e per rifiutarle il visto d'ingresso nel paese da lei tanto amato e dove non poté mai più ritornare. La Scuola delle Donne è lieta di offrirvi la lettura di La Buona Terra di Pearl Buck. Margherita Carbonaro, traduzione. Oscar Mondadori, editore. Da Devana, buon ascolto.